venti di tempesta, 20 litri di vino a testa per fare festa, 20 di guerra da terre lontane, ma le cannonate sono sempre più vicine. Sentire il vento che gonfia le vele, annusarlo bene per scovare le prede. Vento del deserto porta sabbia e sfortuna, non c'è mai vento sulla luna. Aria pulita sa di cambiamento, una brezza calda e un futuro incerto. Panni stesi al vento sanno di speranza, vento nei capelli mentre il tuo corpo danza. Urlare al vento quando si ha paura, trova riparo per sentirti sicura. E risposte amico soffiano nel vento a domande che non hanno senso. Sul viso, in un viaggio che durerà tutta la vita, la tua forza è infinita. Il vento porta misteri e segreti, sussurra storie di antichi riti, risveglia sogni e porta fortuna. Non c'è mai vento sulla luna. Venti di gioia, c'è aria di festa. Venti di fumo, fan girare la testa. Lascia soffiare il tempo che mi resta. Sogno mia madre alla finestra. Storie di antichi miti, risveglia sogni e porta fortuna. Non c'è mai vento sulla luna.